8:59 minuti, questa mattina addirittura siamo con un minuto in anticipo. Come ogni venerdì è il momento di Pensatech, la nostra trasmissione dedicata all'innovazione e al digitale. Una buona giornata a tutti, tutti coloro che ci stanno ascoltando, e buona giornata anche a Marco Boscolo. Buongiorno, buongiorno Damiana, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. E allora, questa mattina, come vi abbiamo anticipato, andiamo a fare un'incursione nella storia. Eh sì, perché anche noi di Pensatech si guardiamo all'innovazione, però bisogna anche ricordare il nostro passato, e allora vi faremo vedere delle ricostruzioni 3D, anzi ve le racconteremo visto che siamo in radio, dedicate proprio alla storia. Parleremo di invasioni digitali ma anche di archivi. E allora partiamo proprio da qui, partiamo da Città degli Archivi, un portale dedicato alla città di Bologna e in particolare proprio agli archivi dell'Otto e Novecento. E abbiamo al telefono il responsabile scientifico del progetto, Armando Antonelli, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, dicevamo un portale dedicato proprio agli archivi dell'Otto e Novecento, perché metterli online? Allora, questo è un progetto molto complesso che parte dal 2006 ed è stato finanziato dalle due fondazioni di Bologna, la Fondazione del Monte e la Fondazione Carisbo, che ha avuto come obiettivo proprio quello di salvare gli archivi più a rischio, che sono proprio quelli più della storia vicina ai nostri tempi, quindi gli archivi 8-900. Tutto questo processo molto, molto complesso ha avuto come obiettivo finale quelli di renderli fruibili, e di rendere fruibili non solo alla cittadinanza ma a tutti gli studiosi. Quindi il risultato finale di questo lavoro è proprio un portale che renda pubblico gli inventari e una serie cospicua di digitalizzazione di questo patrimonio documentario, con anche delle possibilità appunto di realizzare mostre virtuali e altri tipi di ricerca che poi immagino ne parleremo tra poco. Insomma, ci puoi spiegare quali sono i contenuti? Cioè si parla di contenuti prettamente scientifici, di interesse storico, accademico, oppure anche della vita di tutti i giorni? Anche della vita di tutti i giorni. Ci sono archivi di personalità come quelli di Minghetti, archivi di istituzioni come quelli della Questura o come delle scuole pubbliche come quelli del Righi, ma anche archivi che riguardano, diciamo, la vita quotidiana dei bolognesi. In particolar modo ci sono una serie di fondi molto molto interessanti conservati e lavorati da Home Movies, che sono proprio i filmati amatoriali dei bolognesi a partire dai primi del Novecento, ad esempio. Oppure vi sono alcuni fondi che si trovano all'Antoniano, come quelli appunto dello Zecchino d'Oro, che raccontano un po' anche questa storia bolognese. Ma altri e tanti sono gli archivi che riguardano la vita dei cittadini, insomma, a partire dal carteggio del comune che racconta la storia appunto della nostra città a partire dall'Unità d'Italia. Ecco, Armando Antonelli, lei diceva prima che sono soprattutto gli archivi più vicini a noi che sono quelli più a rischio di essere così persi e dimenticati. E come mai penseremmo che quelli più vicini a noi sono quelli che è più facile conservare rispetto a quelli del passato più profondo? Invece è avvenuto proprio il contrario, nel senso che gli archivi importantissimi bolognesi medievali o quelli d'epoca moderna, o anche quelli gentilizi, quelli che sono rimasti e sono giunti a noi, sono di solito conservati in luoghi che sono proprio deputati alla conservazione degli archivi: l'archivio di Stato di Bologna, l'archivio, i fondi archivistici conservati alla biblioteca dell'Archiginnasio, quindi in luoghi che proprio fanno questo per mestiere. Invece gli archivi che sono ancora legati agli enti conservatori spesso sono fra quel patrimonio culturale che è maggiormente trascurato e quindi maggiormente a rischio, perché appunto ancora non entrati interamente nella loro fase di vita che definiamo storica o di deposito. Ecco, questa serie di materiale d'archivio che avete cominciato a mettere a disposizione ha già delle funzionalità sul sito. Quali sono le principali funzionalità? Allora, se voi o gli spettatori desiderano andare a vedere il sito appunto www.cittadegliarchivi.it, noteranno che ci sono molte possibilità di ricerca, a partire da una ricerca che è quella propria degli archivisti o degli storici, cioè che scorre l'albero, la struttura apertura degli archivi e si possono ricavare informazioni dalle più generali alle più minute, ma anche una serie di possibilità di interrogazione della banca dati, diciamo così, nella maniera più estesa possibile, quindi a partire dagli indici, a partire da anche le tipologie documentari, quindi uno può andare a ricercare tutti i manifesti che riguardano il 1935, tutti i filmati che riguardano la Bologna del Novecento. In più abbiamo sviluppato anche un'area semantica, quella che noi chiamiamo i percorsi, la ricerca nei percorsi, che sfrutta in parte la tecnologia del web semantico e quindi dà delle risposte che normalmente con le ricerche puntuali non si possono ricavare. Inoltre abbiamo una serie, lo vedrete nell'home page, nell'ultimo pannello, una serie di mostre virtuali che si possono realizzare e che sono aperti appunto a tutti su tematiche diverse, quindi l'ultima che abbiamo pubblicato è su una serie di foto della liberazione di Bologna nel 45 e l'abbiamo pubblicata proprio tra il 21 e il 25 aprile, ma vi sono anche altre mostre virtuali che possono essere anche sviluppate in 3D e c'è la possibilità, legate appunto ai personaggi importanti che sono stati all'Antoniano e possono coniugare, oltre a riproduzioni di fotografie, di documenti, anche filmati, e vedrete ci sono dei filmati molto, molto accattivanti riguardo appunto allo Zecchino d'Oro. Partendo dal web, poi come si ritorna nell'offline? Cioè ci sono dei progetti, ad esempio con le scuole, eventi in cui vi siete presentati, avete avuto un riscontro poi anche del vostro lavoro? Beh, è un riscontro molto, molto positivo, perché questo, come dicevo, è il punto finale del percorso. Il nostro punto iniziale non era tanto la diffusione e la appunto condivisione dei risultati, ma salvare questi archivi. Quindi li abbiamo salvati, li abbiamo condizionati, li abbiamo riordinati, hanno lavorato a questo progetto in questi anni oltre 100 archivisti, con una collaborazione strettissima con la sovrintendenza archivistica che ci ha seguito passo passo, a cui siamo debitori, e che ha permesso la consultazione di questi archivi. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di documenti riordinati che ora sono a disposizione dei cittadini e degli studiosi, a partire dagli inventari che si possono trovare online. Finalmente si potrà andare a fare ricerca nei luoghi con gli archivi ordinati e disponibili allo studio. Quindi diciamo quello della salvaguardia è stato il primo dei nostri obiettivi da raggiungere, quello della divulgazione l'ultimo, una divulgazione che appunto attraverso il portale vuole essere dinamica e aperta, diciamo, a tutti gli utenti e a tutti gli interessi. Per questo a breve avremo anche la possibilità sul portale, fra un paio di mesi, di aprire un'area wiki dove l'utente potrà salvare le proprie ricerche, potrà rielaborarle e, passando attraverso la redazione, anche pubblicarle. E questo sarà molto utile anche per svolgere ricerche tra più enti universitari o enti di studio e anche fare divulgazione proprio all'interno della scuola. Questa, diciamo, è la sua declinazione informatica e sul web. Abbiamo riscontrato che questo riordinamento, per esempio nelle scuole, immagino per esempio a Righi, ha portato a una consapevolezza maggiore del proprio patrimonio, patrimonio documentario estremamente importante, e quindi sono nate molte iniziative durante questi mesi che hanno fatto conoscere gli archivi agli studenti e aperti al pubblico. Antonelli, le faccio un'ultima domanda proprio sulle risorse che sono necessarie per mettere in piedi questi portali. Spesso quando si parla di incuria della nostra memoria, del nostro patrimonio artistico, c'è un'immagine anche di questi archivi un po' abbandonati a loro stessi e appunto a rischio anche di deperimento. Il digitale ci aiuta in questo, nel salvarli, oppure comunque è anche un nuovo canale in cui canale importante in cui mettere delle risorse per il nostro patrimonio artistico e culturale storico? Direi che la risposta risponde affermativamente a entrambe le affermazioni. Certo, ci aiuta a salvarlo, nel senso che alla conclusione di un processo molto complesso, immagino soprattutto a quelle grandi mappe o quei grandi disegni o quei documenti molto delicati come sono i lucidi degli architetti, che hanno bisogno di ordinamento, di conservazione molto delicata, di restauro, la riproduzione digitale di alta qualità permette che questo materiale non venga dato continuamente in consultazione, ma sia usufruito ancora meglio quasi dell'originale da un pubblico vastissimo. Quindi in questo senso sì, merita di essere valorizzata la riproduzione digitale. La riproduzione digitale difficilmente sopperisce a invece la consapevolezza che bisogna avere nel mantenere gli archivi in ordine e consultabili, perché appunto, come ho detto, parliamo di milioni di documenti che non possono essere riprodotti digitalmente in maniera complessiva. Quindi su entrambi i settori bisogna investire, avendo la consapevolezza che vi sono delle strutture come quelle della sovrintendenza e delle risorse da mettere in campo per ottenere questi risultati. Ecco, Armando Antonelli, un'ultima domanda proprio lampo, visto che a me sono piaciute moltissimo le mostre virtuali, la prossima? La prossima stiamo pensando a organizzare una mostra virtuale con immagini tratte dall'archivio Lida Borelli, cioè sugli artisti che hanno consegnato e hanno donato i loro archivi in questo ente benemerito, quindi una mostra su gli aspetti artistici della Bologna del Novecento. Quindi la Bologna del Novecento al centro della prossima mostra virtuale di città del Novecento. La Bologna artistica nel Novecento. Nel Novecento, per la precisione, giusto. Dicevamo al centro della prossima mostra virtuale di città degli archivi, noi ringraziamo Armando Antonelli. Io ringrazio voi. Ricordiamo anche il sito www.cittadegliarchivi.it. Grazie Armando Antonelli, responsabile scientifico del portale Città degli Archivi. Buona giornata. Buona giornata a voi, grazie. Arrivederci. cittadegliarchivi.it, questo accento che ci perseguita anche a noi di www.radiocittadelcapo.it. Chissà i francesi molto... come fanno. Non so, c'è Piero Santi che è molto bravo a dirlo senza accento quando ricorda l'indirizzo di posta. sì, effettivamente questo è un problema per i nostri URL, anche se mi dicono che stanno arrivando gli URL con gli accenti, già si possono scrivere anche se non sono molto gettonati, ancora non sono molto utili. Bisognerà risolvere questo problema, specialmente per lingue come l'italiano, lo spagnolo e il francese. Per esempio, l'italiano ancora ne ha pochi di accenti. Sì, sì. E Marco, ricordiamo i nostri contatti, ancora questa mattina non li abbiamo dati, vogliamo sentire dai nostri ascoltatori cosa ne pensano di questa commissione tra la storia e il digitale, se si sentono un po' più attratti a questo punto dalla nostra storia, dalla nostra memoria, magari andando prima a curiosare in un PC prima che andare direttamente in un museo, e se il museo non è più questo spazio polveroso come uno è abituato a credere, magari può invece darci degli spunti in più proprio di interazione digitale. Parliamo di questi filmati, di queste ricostruzioni in 3D, sì, sicuramente non è più un ambiente asettico. Non è più un ambiente asettico, lo potete raggiungere dal vostro computer di casa, almeno in parte, potete navigarci dentro, quindi non avete neanche la scusa di dover uscire di casa in una giornata magari piovosa, oppure dover pagare anche un biglietto d'ingresso, visto che Città degli Archivi, per esempio, di cui abbiamo parlato finora, è completamente gratuita, messa a disposizione per quanto riguarda le proprie risorse a tutti i cittadini, quindi patrimonio di tutto, gratuiti per tutti. Esatto, quindi raccontateci se avete mai avuto l'occasione di frequentare uno di questi ambienti, fatelo attraverso tutti i nostri contatti, l'SMS che è il 348-7649-289, attraverso la nostra il nostro account su Twitter che è @pensatech, ma anche la mail che è diretta@radiocittadelcapo.it, e non dimentichiamo anche la pagina Facebook di Radio Città del Capo. Insomma, avete un sacco di possibilità per mettervi in contatto con noi. E allora, parlavamo dei musei, questi musei polverosi. Addirittura quando si parla di un museo archeologico, beh, lì l'immaginario è proprio il massimo della polvere. E invece abbiamo scoperto che il Museo Archeologico di Bologna è decisamente all'avanguardia, ma lo era ancora negli anni 90, e addirittura ha avuto il primo un importante archivio di numismatica, quindi delle monete antiche, che appunto, non potendo essere toccate direttamente dai visitatori, venivano catalogate in un archivio online accessibile, in questo caso all'interno del museo, e in questo modo potevano essere anche scambiate con gli altri musei internazionali. Ecco, al Museo Archeologico di Bologna si è partiti da lì, ma si è passati anche poi a una visita attraverso i codici QR, questi codici a barre. Immagino che molto di voi li avete già visti. Insomma, sono dei codici che attraverso lo smartphone ci danno delle informazioni in più reperibili online, che tutti questi quadretti bianchi e neri, e poi ancora si è arrivati fino a una creazione di un ambiente in Second Life per ricostruire quella che è l'ambientazione di una della Bologna in epoca romana. Insomma, sicuramente non un museo di vecchio stampo, ma un museo aperto all'innovazione. E allora noi abbiamo intervistato Paola Giovetti, che è il direttore tecnico del Museo Archeologico di Bologna. Sentiamo. Il Museo Archeologico ha iniziato questa esperienza di commistione tra archeologia e risorse informatiche, digitali, in anni non sospetti, cioè quando ancora l'informatica legata ai musei era veramente agli inizi. Stiamo parlando del 94, inaugurazione della nuova sezione egiziana del museo, inserimento all'interno degli spazi espositivi di una saletta informatica dedicata ad una sezione ai rilievi di Horemheb provenienti dalla tomba di Saqqara, con la realizzazione di un video in computer grafica assolutamente all'avanguardia, che permetteva la ricontestualizzazione di questi importantissimi rilievi, che sono il gioiello della nostra collezione, ma diciamo tra le opere più importanti anche in Europa dell'epoca egizia. Ricontestualizzandoli in situ, quindi ricostruendo questa tomba del generale Horemheb, e aggiungendo a questo non solo la ricontestualizzazione degli oggetti bolognesi, ma anche di tutti gli altri rilievi presenti nei diversi musei europei. Questo ha significato mettere in collegamento la collezione bolognese con altri istituti museali di grande livello. Che vuol dire che a Bologna si poteva avere accesso virtuale anche a quegli oggetti che non erano fisicamente a Bologna, sì, ma in altri musei? Sì, e il tutto ovviamente mirato a rivedere virtualmente questi rilievi alle pareti di questa tomba che era stata scavata negli anni 70. Quindi diciamo che siamo partiti da una base assolutamente scientifica, quindi una produzione scientifica di tutta la campagna di scavo di quest'area archeologica, cercando però di rivolgerci al pubblico più vasto, proprio per far comprendere anche diciamo il linguaggio di queste raffigurazioni, perché c'è una sorta anche di diciamo parcellizzazione dell'immagine e di spiegazione delle singole immagini. Ecco, questo è un po' l'inizio. Sì. Gli ultimi invece esperimenti di cui appunto state portando avanti? Gli ultimi esperimenti che stiamo portando avanti, dopo aver realizzato una serie anche consistente di banche dati digitali, anche queste piuttosto all'avanguardia, la prima in assoluto è stata quella della collezione numismatica, che non è accessibile al pubblico. A fianco di questo, comunque della prosecuzione delle banche dati degli oggetti conservati in museo, siamo passati alle tecniche un pochino più avanzate, cioè stiamo cercando di stare comunque sempre all'avanguardia. Quindi abbiamo utilizzato per un esperimento, diciamo che è partito in occasione di Archeopolis, festa dell'archeologia che abbiamo fatto nel 2011, e siamo passati all'utilizzo di diciamo software, tecniche e anche diciamo network sociali per la realizzazione di un filmato legato ad un personaggio bolognese, Marco Celio, un soldato romano che morì nella battaglia di Teutoburgo, una delle più famose sconfitte dei romani. E questo cittadino bolognese morì appunto lontano dalla propria terra e gli venne dedicata questa stele che ora è il Museo di Bonn, e noi abbiamo voluto in qualche modo realizzare una specie di cortometraggio, durerà 7-8 minuti, siamo ancora in fase siamo in fase conclusiva fortunatamente, ma ancora di elaborazione, che permette di ricostruire in maniera anche romanzata ovviamente, perché più di tanto non la conosciamo, la storia di questo personaggio bolognese sconosciuto ai più, ma comunque importante per la storia della nostra città, con un rigore scientifico per quanto riguarda tutta l'ambientazione, e quindi basandosi ovviamente sulle fonti archeologiche più note e utilizzando scansioni in 3D di oggetti presenti in museo per l'ambientazione degli spazi, quindi voglio dire dalle lucerne ai vasi, ai bicchieri, ai tavoli, ai letti eccetera, quindi c'è una ricostruzione molto rigorosa dal punto di vista archeologico, però inserita in un contesto assolutamente gradevole dal punto di vista della narrazione. Diceva che avete utilizzato anche i social media, in che modo? Nel senso che questo ultimo progetto è molto ambizioso e solitamente si utilizzano dei software che sono quelli che utilizza la Pixar, per intenderci, per fare le animazioni che ben conosciamo. Il problema è che questi hanno dei costi assolutamente inaffrontabili, come potete immaginare, mentre noi ci siamo rivolti anche a tutta la comunità, soprattutto di giovani, che è anche un modo per cercare di avvicinare questa fascia all'archeologia, legati al mondo di Second Life, quindi diciamo che una parte anche delle animazioni, delle ricostruzioni, del lavoro fatto attorno a questo filmato proprio parte dalla disponibilità di questi giovani che in rete operano e lavorano con queste tecnologie, quindi diciamo che non è uno sfruttamento del lavoro minorile, ma è un tentativo proprio di far partecipare alla costruzione di questo filmato e di questo progetto queste comunità che operano sui social network. Effettivamente quando si lavora con i social network, dai, diventa tutto un po' più divertente. Diventa tutto più divertente, e proprio sui social network, infatti, abbiamo ricevuto anche un tweet questa mattina. Ci twitta Chuligan, dicendo la propria esperienza, insomma: all'archivio comunale di Bologna ci ho passato gran tempo per la tesi, senza gli archivisti sarei stato perso, e chissà quanti altri di noi durante la tesi, per scrivere la tesi, hanno consultato archivi storici di vari enti qui a Bologna, e senza l'aiuto di questi esperti di ricerche sarebbero stati lì ancora adesso, dopo magari anni, alla ricerca del documento che gli serviva. Effettivamente, come è cambiata anche la ricerca, pensiamo, scolastica, perché io ancora mi ricordo alle elementari, quando si andava in biblioteca, si andavano a prendere le vecchie enciclopedie, spesso magari si trovavano informazioni vecchie di decenni e portavi quelle a scuola, invece adesso effettivamente la ricerca è online, non più semplice, perché anche lì c'è ben da cercare, da selezionare soprattutto, però sicuramente di cose si trovano anche più aggiornate. Dicevamo appunto, c'è chi gioca con i social network, c'è chi contribuisce anche ai ragazzini, ci raccontava Paolo Giovetti, a questo progetto di raccontare e rendere più fruibile quello che è la nostra storia, anche quella un po' più sconosciuta. Appunto, ci citava questo soldato romano di origine bolognese a cui hanno dedicato una stela a Bonn e di cui cui in realtà qua a Bologna non si parla, insomma. Diceva lei un cortometraggio, in realtà appunto ci ha accennato è qualcosa di più complesso, addirittura una piattaforma di tipo Second Life in cui appunto si può navigare con un avatar all'interno di questo ambiente ricostruito della Bologna in epoca della Roma antica. E allora ci siamo chiesti chi le fa? Chi le costruisce queste cose? Chi le fa? Ci sono delle aziende specializzate, degli esperti del settore all'incrocio tra architettura e 3D, quindi ricostruzioni tridimensionali via software, come per esempio Noreal.it, un'azienda con sede a Torino, ma come poi sentiremo nell'intervista sparsa, esplosa su tutto il territorio nazionale e forse non solo. Abbiamo intervistato Davide Borra, che appunto di Noreal è stato uno dei fondatori, e ci ha proprio raccontato un progetto in particolare molto molto interessante. Come abbiamo iniziato? Beh, ho iniziato io come freelance in un momento in cui l'informatica grafica applicata all'architettura era agli albori. Era una passione mia personale, avendo studiato architettura ho unito i due lati della stessa medaglia e mi sono ritrovato a poter utilizzare il computer per visualizzare siti archeologici, monumenti antichi che non era possibile visualizzare in altro modo se non utilizzando le tecniche tradizionali del disegno. Poi c'è stata la perseveranza nel cercare di fare di questa passione di farlo diventare un lavoro e dopodiché di farlo diventare un'azienda. Diceva che è partito da solo, ma in questo momento quante persone lavorano a Noreal e con quali professionalità? Noreal è oggi una 3D agency, cioè un'agenzia che si occupa di sviluppare 3D non solo per il virtual cultural heritage, quindi abbiamo commesse che arrivano dal mondo dell'industria, del commercio, del design e anche dai beni culturali. Beni culturali che è un mercato sempre complicato, sempre difficile, proprio perché si è in una nicchia e poi comunque tutti risentiamo della crisi, non solo Italia ma tutta l'Europa sta passando. Noreal non è un'azienda grande, ma ha da sempre lavorato in telelavoro, da sempre intendo da 20 anni, quindi quando i modem andavano veramente piano e Skype ancora non esisteva. Continuo a sposare questa filosofia che ci permette di essere molto flessibili e di creare dei team molto specializzati sulle singole commesse. Andiamo da gruppi che vanno da 2-3 persone fino a gruppi soprattutto non tanto nell'area del cultural heritage ma quello industriale che possono superare tranquillamente la ventina di persone. E allora sono le 9:26 minuti, io a questo punto vi saluto con la voce invece di qualcuno che ha organizzato un'invasione digitale, si chiama Francesca Sanzo, non è la prima volta che la sentite su queste frequenze, soprattutto in questa trasmissione, ha organizzato un'incursione il 28 aprile al Museo del Patrimonio Industriale di Bologna. Il progetto si inserisce all'interno del progetto di invasioni digitali lanciato da Fabrizio Todisco, che di mestiere si occupa di comunicazione e turismo, e l'obiettivo del progetto è stato quello proprio di valorizzare il patrimonio culturale italiano attraverso la rete e quindi le conversazioni online. A questo punto noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a venerdì prossimo e vi lasciamo alla voce di Francesca Sanzo su Twitter @PanzaAllaria. Digitali, secondo me il successo di questo evento è stato proprio nella facilità con cui chi voleva invadere un luogo d'arte o un museo poteva farlo. Bastava iscriversi al sito invasionidigitali.it, scaricare la grafica coordinata e poi contattare ovviamente il museo o i titolari, insomma, del posto che si voleva invadere. Nel mio caso ho contattato lo staff del Museo del Patrimonio Industriale, dove anni fa ho anche lavorato, quindi avevo anche dei rapporti personali. La responsabile del museo, Maura Grandi, è stata molto entusiasta di partecipare all'iniziativa, perché comunque è un'iniziativa valorizzante per i luoghi d'arte e per il patrimonio storico e culturale della città, e quindi semplicemente abbiamo preso un accordo sul quando. Successivamente io ho poi aperto su Eventbrite, che è una piattaforma per gestire gli eventi, ho fatto una pagina dedicata all'evento dove le persone si potevano iscrivere, c'era un numero limitato di posti, quindi quasi subito abbiamo terminato le iscrizioni, perché comunque queste invasioni hanno avuto grande successo. Tutta questa partecipazione poi è diventata molto materiale online. Ci racconti un po' quali sono i pezzettini che sono venuti fuori dalla giornata organizzata da te? Sì, esattamente. Dunque, allora, l'idea delle invasioni digitali è proprio quella di valorizzare il patrimonio culturale attraverso il web. Quindi gli invasori si fanno un po' carico di diffondere la consapevolezza che si può raccontare il patrimonio culturale anche facendo una narrazione, uno storytelling condiviso online. Quindi poco prima che iniziasse la visita, io ma anche altri invasori, sono stata anche l'invasione incertosa organizzata il sabato precedente, abbiamo raccontato qual era lo scopo dell'iniziativa e detto che insomma, sarebbe stato bello condividere sui vari social network, quindi Twitter, Instagram come primi, poi anche Facebook, Foursquare, tutti quelli che venivano utilizzati dalle persone presenti, fotografie o micro contenuti che raccontavano quello che stava succedendo. Nel nostro caso era una visita guidata, quindi abbiamo postato fotografie ma anche piccoli aneddoti che venivano raccontati durante la visita stessa. Quando io sono tornata a casa ho aggregato tutti questi contenuti attraverso la piattaforma Storyfy e ho creato una specie di narrazione, uno storytelling, prendendo i contenuti delle persone che avevano partecipato. C'era un hashtag che è quello dell'evento generale, che è Invasioni Digitali. Poi io avevo creato per l'occasione un hashtag in particolare proprio per agevolare, no, l'aggregazione dei contenuti su quel determinato evento, che era Museo Pat. È stato quindi, dopo è stato anche facilissimo. Ha partecipato anche un giornalista di Repubblica che è stato molto carino, il giorno successivo ha pubblicato sul suo blog, su Caffè Letterario, un post per raccontare l'iniziativa. Hanno partecipato poi anche tante persone veramente normali, tra virgolette, che non necessariamente usano il web per lavoro. C'erano tantissimi bambini, quindi la cosa è stata proprio bella e spontanea anche da un punto di vista della partecipazione trasversale anche delle generazioni, diciamo, a questo evento.